in primo piano. In questo martedì 31 agosto sono pressoché unanimi le aperture dei giornali, vale a dire dedicate alla visita del leader della Libia, Muammar Gheddafi, in Italia. Io però partirei dall'apertura del Sole 24 Ore, cioè l'apertura economica del giorno. Tokyo non ferma lo yen. Questo è il titolo principale del Sole 24 Ore. Bene l'asta dei BTP collocati 10 miliardi, tassi decennali in calo. Ma poi, come detto, è lo show di Gheddafi che tiene banco. Gheddafi a Roma provoca l'Europa, così titola il Corriere della Sera, mentre per Repubblica Gheddafi show è scontro. Il colonnello 5 miliardi alla Libia o l'Europa sarà nera. La Stampa: Gheddafi minaccia l'Europa, può diventare come l'Africa. Poi, non so, ci sono anche titoli molto più forti. Il Fatto Quotidiano: l'Italia di B, cioè di Berlusconi, colonia di Gheddafi. L'Unità addirittura mette in prima pagina i due baciamano famosi di Berlusconi, uno a Papa Ratzinger e l'altro a Gheddafi. Conversioni, questo è il titolo. Gheddafi, accordi e avvertimenti, questo per il Messaggero. È anche sintomatico e interessante l'apertura della Padania, vale a dire il quotidiano della Lega Nord: l'Europa sia cristiana. Gheddafi sogna il vecchio continente convertito a Maometto. Il professor Della Valle: il rischio concreto si chiama Turchia, vero cavallo di Troia dell'espansione islamica. Mentre cito anche le aperture dei due quotidiani che da un mese ormai stanno facendo una campagna molto aggressiva nei confronti del presidente della Camera Fini, vale a dire il Giornale Libero, il Giornale. Anche l'Unità caccia il compagno Fini. Ieri è uscito un articolo a firma Francesco Piccolo a pagina 3 dell'Unità, nella quale si adombrava la possibilità che, insomma, Fini potesse e dovesse in qualche modo lasciare la presidenza della Camera, mentre per Libero: affari e truffe, Fini lo sblocca cricca. Una piscina mai finita e ora abbandonata, per questo la segretaria di Gianfranco si è data da fare. È un po' la notizia che ieri già lanciava il Giornale. Come detto, però, in questo inizio di rassegna stampa io andrei a capire che cosa sta succedendo con la visita di Gheddafi. È il tema del nostro sondaggio, dovete votare su radio24.it. vi dà fastidio o no questa visita di Gheddafi? Beh, le perle ieri dette dal leader libico sono queste, le più importanti. La prima è: o ci date 5 miliardi o non vi passiamo all'anno, 5 miliardi di euro l'anno, oppure la Libia non può garantire di fermare l'immigrazione e quindi potrete diventare un'Europa nera, un'Europa che diventa Africa. La seconda è questa: le donne da noi sono trattate meglio che in Occidente e negli Stati Uniti. La terza provocazione trova ampio risalto a pagina 5 del Corriere della Sera. Ieri, visitando il museo di storia, un museo di storia e in un convegno di storia, Gheddafi ha detto questo: gli storici dicono che il maresciallo Graziani, il maresciallo italiano, insomma, uno degli artefici dell'occupazione della Libia, è stato il maestro di Hitler per i campi di concentramento e l'Olocausto. Lo stesso sistema è stato usato contro i libici. Nei campi morivano 50 libici al giorno, donne, uomini, bambini. Insomma, il Rais riscrisse la storia: italiani maestri di Hitler. Questo è il titolo a pagina 5 del Corriere della Sera, cioè saremmo noi italiani con il maresciallo Graziani ad avere ispirato Hitler nei campi di concentramento e dunque nell'Olocausto. Questo ha detto Gheddafi. Sta di fatto che ci sono i commenti di chi si dice indignato, ci sono i commenti invece di chi dice è la politica, è la realpolitik. Il Giornale fa notare anche in prima pagina: la sinistra smemorata, per la sinistra era un fratello, ora chi accusa, dice, chi ci accusa di quello che stiamo facendo ora ricorda male di quando Gheddafi diceva Prodi è un fratello, D'Alema è un amico. E a pagina 3 ci sono tutte le dichiarazioni d'amore che i democratici non ricordano. Ieri il Fatto Quotidiano, o meglio Domenica, faceva notare come anche il Partito Democratico ha votato in gran massa per il sì alla ratifica dell'accordo in Parlamento Italia-Libia. Berlusconi sul Corriere della Sera, il Cavaliere difende l'alleato, sbaglia chi critica l'amicizia, pochi virgolettati, sono a parlare soprattutto le foto in questi due giorni, no? Lo spettacolo ieri dei Cavalieri Berberi all'esibizione alla caserma di Tor di Quinto, le foto di Gianni Letta e Berlusconi a fianco a Gheddafi, le foto delle immancabili hostess, le hostess alle quali Gheddafi ieri ha fatto una nuova lezione dicendo che le donne sono trattate meglio in Libia che in Occidente. Berlusconi, in un virgolettato riportato da Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere della Sera, dice: il trattato di amicizia italo-libico porterà dei vantaggi per tutti. Chi non lo capisce, in questi giorni si sono sentite delle critiche, appartiene al passato ed è prigioniero di schemi superati. Così come il ministro Frattini, sempre in un virgolettato, parliamo di gente che non conosce la politica estera e gli interessi dell'Italia. E questo è un altro virgolettato. Frattini è stato anche criticato per l'accoglienza, un'accoglienza molto sorridente all'arrivo, allo sbarco di Gheddafi dall'aereo a Roma. Insomma, come detto, ci sono le critiche per come Gheddafi viene ricevuto. Per esempio, è critica anche abbastanza il ministro dei giovani Giorgia Meloni. Il ministro per la gioventù, in un'intervista alla Stampa, pagina 3, dice: che fastidio per l'appello alle nostre ragazze. Direi che, vedendo queste 500 ragazze italiane che vanno a lezione di Islam da Gheddafi, provo l'effetto combinato di sensazioni differenti, un certo fastidio per il fatto che il leader libico si rivolga alle ragazze italiane e non a tutti, come sarebbe normale. Una divertita curiosità per la stravaganza dei suoi atteggiamenti quando viene a trovarci. C'è però il rispetto dovuto nei confronti del presidente di una nazione grande e nobile, con cui è importante avere i migliori rapporti possibili per la nostra storia comune, per gli scambi commerciali, la questione immigrati, per quella dei beni confiscati agli italiani, le distensioni delle relazioni interreligiose. E però, chiede Giacomo Galeazzi, l'intervistatore, c'è un effetto harem a mostrare centinaia di ragazze da convertire all'Islam? Probabilmente si tratta del retaggio della cultura dell'aremo, forse no, non sono in grado di confermarlo. Di sicuro è un elemento di propaganda più a uso interno di Gheddafi in Libia che nei confronti dell'Italia. Insomma, la Meloni dice: c'è comunque un problema di identità, anche identità cristiana, da parte dell'Europa, però certo c'è da tener conto dei rapporti con il paese. Molto più critici sono Maurizio Lupi e Mario Mauro. Chi sono? Maurizio Lupi è il vicepresidente della Camera, Mario Mauro fa parte invece del Parlamento europeo, sono due personalità del Popolo della Libertà, entrambe cattoliche, e che fanno, insomma, della loro ispirazione cattolica anche un punto importante della loro esperienza politica, e che proprio sulla Stampa invece scrivono un articolo in prima pagina molto duro. Basta offrire il palcoscenico al dittatore, caro direttore, si rivolgono così al direttore della Stampa Mario Calabresi. Acta est fabula, dopo due giorni di Gheddafi show verrebbe la voglia di gridare il celebre motto dell'imperatore Cesare Augusto: signore e signori, lo spettacolo è finito. Le amazzoni, i cavalli berberi, la tenda beduina, i vestiti appariscenti, le hostess sembrano annebbiarci la vista. Le parole pronunciate da Gheddafi, scrivono Maurizio Lupi e Mario Mauro, davanti alle 500 adepte accuratamente selezionate, non possono lasciare indifferenti. Quel richiamo alla necessità che l'Islam diventi la religione dell'Europa ha una portata dirompente e non possiamo rimanere fermi a guardare, anche perché, come scriveva Paul Bourget alla fine di un suo celebre romanzo, l'uomo o agisce come pensa o finisce per pensare come agisce. Ed ecco dunque qui la proposta: ci permettiamo di sollevare una questione che è questa. È ancora opportuno offrire il nostro paese come palcoscenico per gli spettacoli del Rais? E su questa domanda vi lascio e ci sentiamo tra qualche minuto, anche perché il tema più importante, che è stato offuscato in realtà da questi spettacoli, da questi show del leader della Libia Gheddafi, è invece un altro, vale a dire gli affari Italia-Libia. E qui bisogna prendere in mano soprattutto il Sole 24 Ore di oggi e il Foglio, da cui ripartiremo subito dopo la pubblicità e il meteo. Le 7:34 minuti, riprendiamo dunque con la lettura dei giornali che, come detto, oggi in primo piano mettono soprattutto e nuovamente la visita di Gheddafi al secondo giorno a Roma. È il tema anche del nostro sondaggio che vi ricordo, e potete votare, state già votando su radio24.it. Vi dà fastidio la visita di Gheddafi? Questo vi chiediamo. Per ora è quasi un plebiscito, l'83% dei nostri ascoltatori che stanno votando dicono di sì. Come detto, Gheddafi ieri si è lanciato in alcune provocazioni o in alcune frasi molto forti dopo aver detto la frase sull'Islam e l'Europa che deve islamizzarsi. Ieri ha detto: serviranno alla Libia 5 miliardi di euro all'anno, altrimenti ci sarà un'invasione di immigrati. Ha detto che le donne sono trattate meglio in Libia che nell'Occidente. E poi, come ha detto il Corriere della Sera, ha rilevato a pagina 5, ha lanciato questa accusa molto forte: gli italiani furono i maestri di Hitler, furono gli italiani che ispirarono a Hitler i campi di concentramento. Ma, come detto, sullo sfondo rischia di diventare il tema di secondo piano. In realtà è il tema sicuramente di primo piano nei rapporti tra Italia e Libia, sono quello degli affari, del business. Tant'è vero che ieri alla cena, come rileva il Corriere della Sera, c'erano i vertici di tantissime imprese, c'era il direttore generale di Confindustria, c'era i vertici della Telecom, l'amministratore delegato numero uno di Unicredit, Alessandro Profumo, visto che della più grande banca italiana, tra l'altro il fondo libico è il socio di maggioranza, il presidente di Enel, i vertici della RAI, il numero uno dell'ANAS, il presidente di Fonsai, il presidente di Impregilo Ponzellini. Insomma, il Sole 24 Ore a pagina 16 racconta bene, con Nicoletta Picchio, di cosa si tratta. Gheddafi, più accordi sulla difesa, mezz'ora di faccia a faccia nella tenda piantata dalla residenza dell'ambasciatore libico a Roma, l'economia in primo piano, i rapporti economici bilaterali possono solo crescere. Questa è la promessa reciproca tra Gheddafi e Berlusconi. In primo piano le commesse nel campo della difesa. Avete una straordinaria industria della difesa, ha detto al nostro premier il leader della Libia. Vogliamo fare più accordi con voi anche in questo settore. E dunque, scrive Nicoletta Picchio, non ci sono solo sul piatto i 1700 chilometri dell'autostrada sulla costa libica, un business da oltre 5 miliardi di euro per le imprese di costruzione italiane. C'è appunto il settore della difesa, i contratti del settore della difesa sono in primo piano, come anche il tema interessante è quello delle banche, perché ne scrive sempre Carlo Marroni, sempre a pagina 16, i libici non escludono di salire in Unicredit, ma, come ha confermato l'ambasciatore libico in Italia Fed Gaddur, la Libia vuole investire nel rispetto delle regole, investire in Italia nel rispetto delle regole e delle regole. Si chiede anche Carlo Marroni chissà cosa ne penserà la Lega. Tra l'altro, la Lega e le banche, ve lo anticipo, sarà il tema che Gianfranco Fabi, che per il secondo giorno sostituisce oggi Oscar Giannino, parlerà alle 9 in 9 in punto. Sul Foglio, in prima pagina, c'è un fondo ancora più che va ancora più nei dettagli del rapporto tra Italia e Libia per quel che riguarda gli affari. La realizzazione della metropolitana di Tripoli, una linea di fregate FREM nate da un progetto comune italo-francese, un investimento di 25 miliardi di dollari dell'ENI previsti da un recente accordo per estrarre petrolio fino al 2042. Saranno probabilmente questi i piatti forti delle intese commerciali che seguiranno entro le prossime settimane. Ecco dunque il tema degli affari che Italia e Libia stanno stringendo. Ve lo segnalo proprio questo articolo molto interessante: così i colossi industriali festeggiano l'amicizia tra il cavaliere Gheddafi. Lo trovate in prima pagina sul Foglio, che completa molto bene la lettura del Sole 24 Ore per quel che riguarda i rapporti stretti e che verranno stretti nella visita tra Italia e Libia, nella visita di Gheddafi. Io, prima di parlare della politica italiana, voglio andare a legare questo tema della visita di Gheddafi con quello che sta succedendo in Iran. Sapete che c'è un appello in Italia Per la verità questo appello, sì, ieri si è aggiunta la voce di Roberto Saviano, ma è un appello un po' all'acqua di rose. In queste cose noi siamo veramente un po' da terzo mondo, no? Mentre in Francia su queste cose sono molto all'avanguardia. L'appello per cercare di salvare Sakineh, questa iraniana condannata alla lapidazione per adulterio, si sono mossi intellettuali, ma anche uomini politici molto importanti, si è mossa anche la Premier Dame, Carla Bruni. Carla Bruni a Teheran, da alcuni giornali molto vicini al potere di Ahmadinejad, è stata definita così: una prostituta francese che blatera di diritti umani, alla faccia della diplomazia tra Teheran e Parigi. Ma sapete anche nel testo del quotidiano Kayan come è stata definita all'interno Carla Bruni, dopo essere stata definita nel titolo una prostituta francese, è stata definita una battona, un'attrice e cantante depravata, una rovina famiglia. E così anche Isabella Gianni, che però se l'è cavata meglio ed è stata schiaffeggiata, fa sapere il Corriere, semplicemente con l'epiteto attrice corrotta. Una prostituta non dà lezioni, così Teheran ha insultato Carla Bruni per l'appello e per la battaglia che Carla Bruni sta facendo insieme a molti intellettuali, Bernard-Henri Lévy in primo piano, per cercare di salvare dalla lapidazione questa donna iraniana, Sakineh. Alla faccia, ripeto, della diplomazia di Teheran. Veniamo, come detto, alla politica italiana, che si anima come al solito per la diatriba tra finiani e berlusconiani all'interno del Popolo della Libertà. La notizia più interessante la dà il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 10, e vale a dire questo: il premier Berlusconi è tentato di fare un discorso alla TV. Per la verità non è una novità, cioè se ne parla da un po' di tempo, ma secondo il Corriere parlare in TV, la tentazione del premier Berlusconi avrebbe rispolverato di fronte a che cosa? Di fronte a un autunno caldo, non con i sindacati ma con i magistrati, visto che la Lega ha detto che c'è un piano per farlo fuori, lui ha risposto che lo conosce già, scrive Marco Galluzzo. Se d'altronde cadrà lo scudo giudiziario bocciato dalla Consulta per quel che riguarda il legittimo impedimento, il capo del governo sarà nudo di fronte ai processi. Allora ecco rispolverata l'idea: andrò in TV a spiegare la mia odissea giudiziaria perché gli italiani sappiano che non farò la fine di Craxi. Questa è l'idea rispolverata, mentre c'è grande attesa per che cosa? Per il ritorno sul palcoscenico pubblico del presidente della Camera Fini, che domenica sarà la festa di Mirabello e parlerà. E da questo punto di vista, visto che si sta parlando da alcuni giorni del tentativo di ricomporre un po' la frattura tra Fini e Berlusconi, e a questo proposito vi segnalo un'intervista interessante che il ministro Roberto Calderoli, identificato come uno dei due pontieri, uno di quei due insieme al presidente della regione Piemonte Cota, coloro che devono cercare di ricomporre questo strappo, bene, Calderoli a Repubblica a pagina 6 in questa intervista dice: basta il fuoco amico contro Fini, anche i giornali come il giornale Libero la smettano con questa telenovela che non può continuare per più di un po' di giorni, è un mese che si va avanti con questa casa di Monte Carlo, ora basta. Addirittura, dice Calderoli, è paradossale, ma il governo è stato a rischio per colpa del fuoco amico, per colpa degli articoli di Feltri e Belpietro sul giornale è Libero. Un giornale ha il dovere di riportare notizie, ma una notizia non può diventare una telenovela, dice Calderoli. Però l'articolo più interessante su ciò che probabilmente Fini dirà domenica a Mirabello lo scrive il Riformista in prima pagina. La firma di Alessandro De Angelis, che segue con molta attenzione, come sempre, la politica. Fini spariglierà sulla legge elettorale. Il Riformista parla di un discorso atteso molto duro da parte di Fini, che avrebbe confidato ai suoi a Mirabello. La decisione è presa a Mirabello domenica. Spariglio su che cosa? Intanto sul conflitto di interesse. Pronta una picconata sul conflitto di interesse. È chiaro, Fini non farà nessun riferimento a Feltri o a un giornale di proprietà del fratello del premier, ma con linguaggio del presidente della Camera dirà che in una democrazia moderna chi governa non può avere a disposizione una corazzata mediatica. E poi il capitolo legalità, il processo breve ovviamente è in primo piano, è ovvio, scrive De Angelis, la terza carica dello Stato non può dire che il provvedimento licenziato dal Senato è invotabile, ma lo pensa e lo farà intendere ricordando le perplessità del Colle. Ricapitolando, serve una legge sul conflitto di interessi e il processo breve è una porcheria. Così dirà, non ovviamente con questi termini, ma il significato all'interno del linguaggio del Presidente della Camera di domenica, Mirabello, secondo Riformista, questi sono i punti sui quali intende muoversi. Tanto che, Belpietro fa sapere, noi porteremo comunque le nostre firme, il direttore di Libero, per le dimissioni a Mirabello, tanto che Libero annuncia ci sarà un'edizione straordinaria. Libero, sapete, il lunedì in genere non esce, mentre lunedì faremo un'edizione straordinaria per raccontarvi cosa dirà Gianfranco Fini a Mirabello e che cosa noi diremo a lui portandogli le firme con scritto si dimetta. Ripeto, il clima politico che ha portato quasi alla rottura, quasi alla caduta del governo, certamente c'è, è questo, e domenica ci sarà uno snodo importante. Intanto, prima del traffico, preannuncio due vicissitudini per due politici italiani, Marcello Dell'Utri, qualcosa abbiamo sentito su anche in GR24, e Andrea Orlando del PD. Che ha combinato Andrea Orlando del PD? Lo scopriamo tra poco. Al grido di Marcello, baciamo le mani, lotta dura senza paura, mafioso, vieni fuori che ti facciamo noi il processo. Così è stato accolto Marcello Dell'Utri, che ieri a Como, nella manifestazione rassegna libraria Parolario, doveva presentare i suoi presunti diari di Mussolini, ma non ha fatto neanche tempo ad aprire bocca. Appena è stato presentato dal nostro, tra l'altro, Armando Torno, che era il relatore, e subito si è scatenata la bagarra all'interno del pubblico, gente che alcuni si sono presentati con delle magliette, 8 persone, ognuno con una lettera che componevano la parola mafioso. Sapete, Dell'Utri è stato condannato in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Insomma, è stato ferocemente contestato. Cori e slogan: Dell'Utri non può parlare. Una manifestazione, certo, violenta nel linguaggio. Alla fine Dell'Utri ovviamente non ha parlato. Raggiunto dal Corriere dice: sono qui a cena a Como, fumo un bel sigaro, queste cose non mi impressionano. Cori e slogan: Dell'Utri non può parlare, lo trovate un po' su tutti i giornali. Mentre chi ha combinato? Andrea Orlando del PD, responsabile giustizia del PD, 41 anni, spezzino, e per questo, visto che di La Spezia la notizia è solo, l'ho trovata solo sul Secolo XIX, è stato trovato positivo all'etilometro. Al volante, patente sospesa, prova etilometro, Orlando scivola, una serata con gli amici, trovato in stato di ebbrezza, come recita il codice della strada. Se l'è cavata con la sospensione della patente per 3 mesi, il pagamento di un'ammenda. Ora lui dice: io, è accaduto un sabato sera, era il 7 agosto, tornavo da una cena con gli amici, ero imbarazzato perché non ho mai fatto un incidente, non ho mai preso una multa neppure per divieto di sosta, ho già fatto ricorso perché gli esami dimostrano sì che avevo bevuto, ma non dite, e soprattutto gli esami dicono che non sono un bevitore abituale. Insomma, una vicenda che non fa mai piacere, no, per un uomo pubblico. Poi, tra l'altro, il Secolo XIX ricorda che le vicissitudini di politici liguri al volante ce ne sono state. Ricordate forse nel 2007, quando Claudio Burlando, che è presidente della regione, a metà del suo primo mandato azzardò una manovra scendendo dagli Arzelli ed è stato beccato in contromano, credo. E tra l'altro ricordano invece un altro spezzino, l'assessore ai trasporti, tra l'altro Enrico Vesco, qualche anno fa riuscì a farsi multare per eccesso di velocità a bordo dell'auto di servizio regolarmente guidata dall'autista. Oppure la multa per sosta vietata a Bordighera da Fausto Bertinotti. Bertinotti ha preso una multa per divieto di sosta. Attenzione, in versione bagnante, ma con l'auto blu. Bertinotti con l'auto blu ha preso il divieto di sosta a Bordighera. Come ex presidente della Camera avrà l'auto blu. Lasciamo la politica, io vi voglio segnalare per quel che riguarda il fronte del lavoro, sapete che c'è questa frase, peraltro anche questa è un po' stucchevole, ma che viene riportata dai giornali ogni anno, quella del cosiddetto autunno caldo. Per quel che riguarda il fronte del lavoro, riaprono le fabbriche, riaprono le aziende, riaprono le imprese e ovviamente ci sono anche le vertenze sul tavolo. Ebbene, oggi il Sole 24 Ore fa un'interessante intervista al presidente di Federmeccanica, Pierluigi Ceccardi, e Nino Ciravegna che lo intervista a pagina 5. Deroghe per tutta la meccanica, questo è il titolo ed è l'elemento più interessante dell'intervista, vale a dire, visto che si parla molto della vicenda Fiat. Dice Ceccardi, tra una settimana ci sarà il direttivo di Federmeccanica che esaminerà la situazione, assumerà le decisioni necessarie, ma la domanda sul contratto e sulle possibili deroghe del settore auto per quel che riguarda i contratti, dice Ceccardi, con FIM, Wilm e altri sindacati che hanno firmato il contratto dovremo definire gli ambiti di derogabilità del contratto, ma le deroghe riguardano l'intero settore, non comparti specifici, quindi non solo l'auto. E infatti Ciravegna chiede, quindi niente deroghe specifiche per l'auto? Le regolamentazioni specifiche per comparti sono possibili grazie al contratto nazionale del 2003, a cui non è mai stato dato seguito, risponde Ceccardi. Oggi si parla di auto, domani potrebbe essere un altro comparto. Definizioni e modifiche saranno argomento di confronto con i sindacati. Certo, quindi con i sindacati il tema della modificabilità del contratto, dice Pierluigi Ceccardi, è il tema principale di questo quest'autunno, della ripresa delle industrie. L'intervista la trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore. Allora, io voglio andare in conclusione, trovate ancora ampio spazio per quel che riguarda la cronaca, questa vicenda incredibile di Messina, no? La lite con tanto di pugni e calci all'interno del Policlinico di Messina che possibilmente può aver causato gravi problemi a una madre, una neomamma e al suo figlio, e il Corriere della Sera dà anche ampio spazio a un'altra lite che si sarebbe che avrebbe causato addirittura la morte di un neonato a Roma. Pagina 20, un'altra lite in sala parto, muore un neonato a Roma. È successo al Policlinico Casilino, a periferia sud-est di Roma. Una vicenda nella quale ora i genitori vogliono vederci chiaro per una ginecologa che ha litigato con le ostetriche in sala parto a proposito di un cesareo, se da fare, se non da fare, se attendere, se non attendere. Sta di fatto che il giorno dopo il bimbo, dopo essere nato, è morto e ora i genitori chiedono e vogliono sapere se questa lite e questo intervento fatto in maniera ritardata possa in qualche modo essere la causa di questa morte. Purtroppo dispiace chiudere con un'altra notizia, sempre di una morte sulla rassegna stampa, ma la trovate sia sul giornale sia sul Corriere. È molto istruttiva, se vogliamo, pone una problematica molto molto interessante. Ce ne eravamo occupati anche con un sondaggio di recente. È successo che domenica scorsa è morto un bambino di 13 anni in seguito a un incidente sulla pista di Indianapolis. Si tratta di Peter Lenz, ragazzino di Washington, caduto dalla sua Honda Moriwaki 250 durante un giro di ricognizione della categoria USGP Race Union, travolto da un'altra moto. Ebbene, il Corriere ci fa un'intera pagina, pagina 25, la morte del pilota tredicenne, quando si rischia troppo presto. È vero, scrive Paolo Di Stefano, conoscendo il mondo delle moto non bisogna stupirsi. Valentino Rossi ha cominciato a correre a 6 anni, Lorenzo a 5, Stoner a 4, forse addirittura a 3. Ma certo, quello che è normale, ci si chiede se si potrebbe postillare, dice Di Stefano, che già la parola centauro accostata a un bambino fa venire il capogiro e che ci vuole una bella dose di pura follia per considerare normale che un ragazzino rischi la vita col consenso di papà e mamma. Per quali oscure ragioni? Per appagare l'ansia di successo e di denaro dei genitori? Per soddisfare un'ambizione familiare che in passato è stata frustrata? Per semplice debolezza dell'autorità paterna e materna? Per la sua passione, ribadiranno quelli che frequentano il circo delle moto, ma non vale la pena rispondere che anche le passioni spesso hanno qualcosa di insano, specie se vengono instillate, trasmesse o banalmente assecondate in età troppo giovane. Certe volte c'è da essere fieri della propria imbecillità di genitori prudenti. Insomma, il tema che ha aperto un dibattito in America è questo: la morte del pilota tredicenne. Noi ci eravamo occupati quando il tredicenne californiano Jordan Romero andò sulla cima dell'Everest per essere il più giovane scalatore sull'Everest, oppure quando la baby velista 14enne Laura Decker olandese ha fatto una causa giudiziaria per ottenere il benestare da un magistrato per fare il giro del mondo da sola a 14 anni in barca a vela. Ci si chiede, ma che senso ha? Ecco, vi lascio con questa domanda, oggi sviluppata dai giornali. Intanto votate il sondaggio Gheddafi, una visita che vi dà fastidio, su radio24.it. Noi ci troviamo dopo il GR24 con l'intervista del giorno.